Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Estate, tempo di partire, ma se ad alcuni l'idea alluzza, ad altri blocca, fa paura. Luigi si trova proprio in questa situazione, ha bisogno del nostro aiuto, amici, forza, allora diamogli una mano. Cara Nicoletta, ti scrivo come si fa ad un'amica perché devo confessarti un segreto. Ho paura di volare, ma ho sempre evitato accuratamente di farlo sapere in giro. Non devo prendere aerei per lavoro, e questo già è una bella fortuna. E ho scelto per le vacanze destinazioni da raggiungere in treno, in macchina o in nave. Mi è sempre andata bene, ma la mia nuova fidanzata, ci conosciamo da 3 mesi, mi ha regalato per il mio compleanno un volo per gli Stati Uniti. Ad agosto dovremo partire per New York. Io non posso dirle che ho paura proprio adesso che ha già comprato il biglietto. Ho il terrore di dirle la verità. Che figura ci faccio? Ma non posso volare, anche se la paura di perderla è grande come quella di salire sull'aereo. Cosa faccio? Una mia amica ha fatto un corso con una compagnia aerea, ma sono scettico. Ho 36 anni e la paura ha messo le radici. Insomma, il nostro povero Luigi però è in buona compagnia. La paura di volare è una delle fobie maggiormente diffuse del nuovo millennio. Solo in Italia le statistiche rilevano che oltre il 50% degli italiani convive con questa paura, o anche con un semplice disagio, no? Si passa dal disagio al vero e proprio terrore. I dati sembrano indicare un progressivo aumento del fenomeno. La paura di volare, poi, lo sappiamo, è assolutamente democratica. Noi siamo partiti dalla mail che ci ha mandato Luigi, ma insomma non guarda in faccia nessuno, colpisce giovani, meno giovani, uomini e donne. Benvenuti sul volo Air Canada non stop Toronto-Parigi. La durata prevista del volo è di 7 ore e 20 minuti. I signori viaggiatori sono pregati di allacciare le cinture di sicurezza, di non fumare e di sistemare lo schienale delle poltrone in posizione verticale fino a decollo avvenuto. Kate? Sì. Sei pronta per un piacevole volo? Sì. Non dimenticare il mantra del decollo. Quali sono le parole che canti piano dentro di te? Stiamo precipitando, stiamo precipitando, stiamo precipitando! Ok. Amo il cielo di Parigi. 800 24 00 24. Partiamo dalla paura di volare, ma ci sono tante altre piccole e grandi paure che ci bloccano, che ci creano disagio. Parliamone insieme oggi. E intanto io mi metto dalla parte di chi ha paura dell'aereo, come il nostro Luigi e come la protagonista di French Kiss. L'aereo è un posto chiuso dal quale non si può scendere quando si vuole. L'aereo vola sospeso a 10.000 e forse più metri d'altezza. Noi non possiamo guidarlo né controllare il suo funzionamento. Quindi salirci vuol dire affidarsi al pilota, all'equipaggio, mettersi nelle mani di qualcun altro competente, ma poi è tutto da vedere, pensa chi ha paura, e affidarsi ciecamente. Quasi quasi viene voglia di prendere un treno, no? Di una nave, di cambiare destinazione. Oggi vogliamo partire proprio da qui per andare a scoprire le nostre piccole e grandi paure. Qua in studio ho la dottoressa Monica Piccinni, buongiorno. Buongiorno. Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il CEDANS e presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese Concassano, di cui è direttore scientifico primario il professor Giampaolo Per, nostro caro amico. Buongiorno, professore. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che alle fobie ha dedicato un libro molto interessante di cui abbiamo già parlato più volte, Fobie, conoscerle e sconfiggerle per ritrovare la libertà perduta. Allora, io vorrei un commento subito dalla dottoressa Piccinni. La paura di volare è una paura abbastanza comune ed è una paura che blocca, certo, no? Perché ci sono un sacco di destinazioni che non si possono raggiungere in altro modo. Che cosa si fa? Certo, la paura di volare è una paura molto invalidante, come anche tante altre paure e fobie, che diventano fobie, che colpiscono i nostri ascoltatori, ma chiunque di noi, perché proprio come dicevi tu prima, le paure sono assolutamente democratiche, quindi colpiscono tutti. Cosa si fa? Innanzitutto, nel momento in cui diventano limitanti queste paure, come quella di volare, ci si mette nelle mani di qualcuno che ci può aiutare a risolverle, e in questo caso sicuramente si fa un percorso di tipo cognitivo-comportamentale, quindi psicologico, per iniziare ad affrontarle. Certo che con l'aereo bisogna andarci piano, perché mentre si possono fare delle prove generali, penso ad esempio a chi, e sono tanti, ha paura di prendere l'ascensore, si possono fare, come suggeriva il professor Perna, un piano alla volta. Certo, si parla di esposizioni graduate. O si vola o non si vola, tanto che le compagnie aeree, molte compagnie aeree hanno organizzato anche dei corsi e le persone che le hanno frequentati sono abbastanza soddisfatti. Che cosa state organizzando voi invece? Allora, sicuramente proprio per la paura di volare, diciamo che le tecniche, quelle classiche, no, di esposizione graduale, che prevedono appunto l'avvicinarsi gradualmente alla situazione fobica, quindi allo stimolo fobico, per quanto riguarda l'aereo sono un pochino più difficili da affrontare, come dicevi, in quanto si parla proprio di un floating, cioè di un'esposizione totale, mm-hmm. nel momento, un'immersione nella fobia, nella paura, nel momento in cui ci si mette direttamente sull'aereo. Le tecniche innovative, tra cui per esempio la realtà virtuale, prevedono invece che si possano fare delle esposizioni graduali, non per forza in immaginazione, ma in realtà virtuale, quindi ci si mette con il caschetto e con una strumentazione adeguata nelle condizioni, quasi naturalmente in realtà virtuale, di spiccare il volo veramente, provando le sensazioni. Perché si può tornare a volare o iniziare a volare, però noi dobbiamo fare un cambio di rotta. L'aereo non fa paura perché è pauroso, ma lo è perché racchiude simbolicamente al suo interno tutte le angosce prodotte dalla nostra mente in particolari momenti di cambiamento della nostra vita. Dunque, la spiegazione della nostra ansia da volo non va cercata negli atterraggi con nebbia o nelle riduzioni di spinta dei motori dell'aereo, quanto nella nostra personale storia di vita, nei cambiamenti significativi che, a cadenza regolare, accompagnano le tappe più importanti della nostra esistenza. Tratto da Mai più paura di volare, di Luca Evangelisti. Volare. Professor Perna, quindi la paura non è nell'oggetto, nella situazione di cui abbiamo paura, ma è nella nostra mente. Ma la paura è sempre la nostra mente, nel senso che nasce dal nostro cervello emotivo che si attiva. C'è da dire che l'oggetto conta. Noi possiamo avere in realtà diverse motivazioni per cui sviluppiamo una vera e propria fobia dell'aereo. Una motivazione semplice è che noi nasciamo apprensivi, troppo preoccupati, troppo paurosi, e quindi tutto ci fa paura, compreso l'aereo. Ecco che allora viviamo in maniera catastrofica l'idea che possa cadere l'aereo, possa succedere qualche cosa, quindi abbiamo una sorta di forte apprensività di fondo. Un secondo elemento è che abbiamo paura di star male, e questo è il caso degli attacchi di panico, per cui noi abbiamo paura che, chiusa in quella scatola messa nel cielo che sta volando, se dovessimo star male non possiamo poi trovare aiuto o sfuggire. La terza cosa invece è aver vissuto un trauma. Cioè, può capitare che se noi abbiamo un viaggio aereo molto turbolento, quindi vuoti d'aria magari molto forti, questo possa creare un tal spavento da memorizzarsi nella parte emotiva del nostro cervello e quindi ripresentarsi questa paura ogni volta che dobbiamo affrontare l'aereo. Quindi la paura dell'aereo non è semplice, è una paura complessa che trae radici da diverse fonti diverse. E di cui noi parleremo nel corso della trasmissione, perché la paura dell'aereo ha in comune tanti meccanismi, tante situazioni con paure molto più piccole o anche molto più grandi. Raccontateci le vostre, raccontateci come le avete superate, come le state vivendo. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Como all'800 24 00 24. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Io sono Alessandro da Como, 37 anni, volevo portare la mia esperienza. Sì, grazie. Verso i 20 anni ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Non avevo mai preso l'aereo prima, per cui nel momento in cui dovevo prendere l'aereo ho ricollegato tutto il discorso del panico, dello spazio chiuso, come diceva il professore appunto adesso, sull'aereo l'ho riportato, per cui mi sono bloccato completamente, non assolutamente, era lontanissimo da me pensare di poter prendere un aereo. Ho curato gli attacchi di panico, ma la fobia si è radicata, a quel punto anche solo il pensare di prendere un aereo era per me una cosa traumatica. Dopo un po' di anni mi sono deciso ad affrontare la cosa perché cominciava a diventare impossibile convivere, anche per rispetto alla mia fidanzata che voleva viaggiare. La potenza delle fidanzate! Alessandro, se non ci fossimo noi! Intanto devo dire a Luigi, che ci starà ascoltando, noi abbiamo messo un nome di fantasia, la mail è vera, ma che Stefano da Udine dice che va lui al suo posto con la sua fidanzata se non vola Luigi. Quindi Alessandro, quindi la sua fidanzata gli ha detto, insomma, Ale... Deciditi. Dobbiamo volare, deciditi. Ecco, perfetto. Cosa ho fatto? Mi sono iscritto al corso di Voglia di volare di Alitalia, appunto sì. Con Luca Evangelisti, che avete appena citato. Sì. Francamente ero terrorizzato, è un corso che comunque fa parlare molto, vabbè, si portano le proprie esperienze, si fanno tecniche di rilassamento. Per chi è a Roma c'è un simulatore prima del volo, mentre per chi è a Milano il secondo giorno si parte, si va all'INATA e si prende un volo per Roma. Devo dire che su 20 che eravamo, tutti con gli stessi problemi, l'abbiamo preso tutti questo volo. Un po' forse per stimolo uno con l'altro, il volo l'abbiamo preso tutti. Siamo tornati da Roma con questo volo, chiaramente la situazione era abbastanza tesa in aereo. Vabbè, comunque è andata abbastanza bene, se non che se non ci si picchia la testa subito dopo, la sicurezza passa subito. Alessandro, ma lei ad esempio quest'estate dove andrà in vacanza? Adesso vado a Barcellona, poi vado a Minorca. Però il volo? No, a nuoto è dura. Capisce. No, questo... no, le dico, guardi, io sto prendendo adesso una decina di aerei al mese, per cui... il problema l'ho risolto io alla fine. E la fidanzata è sempre la stessa? La fidanzata è diventata la moglie nel frattempo. Magnifico. Ed è contentissima. Allora, noi iniziamo con proprio una storia. La dottoressa Piccini vuole intervenire. Una storia a lieto fine, proprio perché bisogna le paure prenderle un po' per le corna, come si dice, no? Affrontarle, sì. Avere il coraggio. Volevo soltanto commentare velocemente l'intervento di Alessandro, grazie per averci portato la tua storia, proprio perché rifacendomi a quello che lui dice, possiamo identificare nell'esposizione, quindi nell'esercizio continuo che naturalmente si deve mettere in atto dopo aver affrontato la prima volta la propria paura, la risoluzione del problema, nel senso che la risoluzione è proprio nello sperimentarsi, nell'affrontare vis-à-vis la propria paura, nel gestirla, nel saperla gestire. Allora, ci sono delle paure che nascono all'improvviso. Alessandro ci diceva, a 20 anni ho avuto un attacco di panico di cui parleremo con il professor Perna, che è un grande esperto, ma ci sono delle paure che nascono da bambini. A volte sono i genitori che inconsapevolmente, senza volerlo, ci trasmettono le loro, magari paure che non hanno risolto. A volte invece sono gli stessi bambini, no? A confrontarsi con questa emozione molto forte e che spesso non manda un po' in crisi i genitori che non sanno come gestirla. E noi ci facciamo aiutare dalla professoressa Ilaria Graziani, che è professore associato di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione all'Università Bicocca. Professoressa Graziani, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, professoressa, ci sono delle paure che noi trasmettiamo ai nostri figli, oppure che ci sono state trasmesse dai nostri genitori, e paure che nascono nei bambini in una fase molto importante della prima infanzia, quella che va dai 3 ai 5 anni, di cui lei si occupa in modo particolare. Che cosa succede? Ma allora, io intanto mi scuso, sono potuto intervenire da poco, quindi non so quanto è già stato detto in precedenza, però generalmente direi, allora, le paure, come tutte le emozioni che noi più conosciamo, la collera, la felicità, la tristezza, hanno una funzione molto importante di adattativa, quindi sono delle risposte razionali che ci consentono di funzionare al meglio. Ma pensiamo, quando noi siamo minacciati da qualche evento che mette proprio in crisi la nostra incolumità, certo, psicologica, proviamo paura. E indubbiamente quindi la paura è qualcosa che aiuta e che fin dai primi mesi di vita si configura come un aspetto che universalmente si presenta in tutti gli individui umani. Indubbiamente nel corso della crescita poi i motivi per cui si prova paura cambiano, si modificano, oppure la predisposizione a provare più spesso di altri paura, a spaventarsi maggiormente. Allora, indubbiamente, come diceva lei, c'è un aspetto di apprendimento, c'è un aspetto in cui entra in gioco in maniera rilevante il ruolo che hanno gli adulti, i genitori, gli educatori, gli insegnanti, chi sta a contatto molto tempo con i bambini. Perché quando noi diciamo ai bambini, no, stai attento, cadi, se fai questo cadi, non ti arrampicare perché ti cadi, fai ti male. Fai male, ecco, sono tante frasi che sentiamo non dire, allontanarti, che non ti allontanarti, perdi, ecco, e non ti trovo più. Bravissima, indubbiamente diamo una lettura al bambino del significato che hanno gli eventi, quindi certo, come eventi pericolosi. Allora, in questo senso indubbiamente è vero quello che lei dice. Un aspetto molto interessante che sappiamo grazie a ricerche molto, molto carine, direi, che sono state svolte già parecchi anni fa, è che il bambino già dalla fine del primo anno di vita, quando si trova in una situazione che, diciamo, ambigua, che non conosce bene, sa come muoversi, 11, 12, 13 mesi, guarda, e quindi in una fase prelinguistica, guarda il viso della mamma, della persona che è con lui. Diciamo di anche del papà, professoressa, del perché sennò poi se la prendono, sono papà meravigliosi. Della mamma, del papà, del nonno, della nonna, della persona che in quel momento è la sua figura di riferimento, per capire come orientarsi. Quindi l'espressione già del viso preoccupata, spaventata di un adulto, certo, fa sì che il bambino, beh, allora qui non mi butto, non esploro, mi freno, mi professoressa, fermo. Voi insieme a Veronica Ornaghi, lei ha scritto due libri che voglio segnalare. Oggi segnaliamo veramente tanti strumenti per cercare di superare le nostre paure: La comprensione della mente nei bambini e La competenza emotiva dei bambini. Tra l'altro avete fatto delle ricerche interessanti in cui proprio avete fatto tirare fuori le paure dei bambini con le parole. Ci racconta rapidamente che cosa è emerso? Sì, allora in poche parole in questi due testi che lei ha citato e che io ci tengo in breve a dire che si tratta di lavori di studio teorico ma anche di ricerca svolti in collaborazione con la dottoressa Veronica Ornaghi. Sì, che abbiamo citato. Ecco, sì. E che ha proprio coordinato dal punto di vista operativo questi lavori. Noi abbiamo sostanzialmente nel giro di 3-4 anni lavorato con parecchi bambini per vedere se funzionava una nostra ipotesi che avevamo di lavoro, era interessante, era verificabile, cioè che già nei primissimi anni di vita, 2, 3, 4, 5 anni, quando i bambini cominciano a emergere il linguaggio, è possibile proporre loro brevi storielle, sì, molto arricchite di linguaggio degli stati emotivi, la rabbia, la paura, come dice lei, l'ho detto nella vostra trasmissione oggi, e poi ripartire dopo l'ascolto di queste brevi storie, appunto arricchite di questo vocabolario delle emozioni, e ripartire con loro a riflettere, partendo dal linguaggio, proprio su queste. Allora, tu provi paura, ma quando provi paura che cosa fai? Cosa ti ecco, succede? Quindi questa è un'indicazione che vogliamo trasferire anche ai nostri genitori all'ascolto, ma che, ringraziando la professoressa Graziani per essere stata con noi, grazie professoressa, grazie a lei, voglio anche riferire ai nostri ascoltatori: trovate le parole per descrivere la vostra paura. Essere e benessere. Il signor soprano? Sì. Si accomodi. Secondo quanto mi ha riferito il dottor Cusamano, il suo medico di famiglia, lei giorni addietro ha avuto uno svenimento, probabilmente un attacco di panico. Aveva difficoltà a respirare. Che è stato un attacco di panico lo dicono loro. Certo, gli esami neurologici e del sangue sono tutti negativi. E mi hanno spedito qui. Adesso come si sente? Bene. Senta, io non ce la faccio a parlare con gli psicologi. Nessuna ipotesi sui motivi del suo blackout? Non lo so. Stress, probabilmente. Insomma, c'è una grande paura, una paura che ha proprio dei sintomi fisici che ben descritti. È l'attacco di panico. Chi l'ha provato la descrive proprio come un terremoto psicofisico. Professor Perna. È verissimo, Nicoletta. L'attacco di panico è una esperienza davvero terrificante che colpisce l'individuo, perché c'è il sereno, quindi impreparato, soprattutto all'inizio della storia degli attacchi, viene colto da questa esplosione fisica di malessere, con un senso di angoscia, un senso quasi di morte. Quindi la persona sente il cuore battere forte, mancare respiro, oddio, sto per morire. È chiaro che questo evento, questo primo evento, rimane poi nella memoria a lungo. Se si ripetono più volte, allora è facile che la persona debba difendersi. Si difende con la paura di star male, si difende con tutti i comportamenti di evitamento, tra cui per esempio l'evitamento dell'aereo, che lo possono proteggere. L'attacco di panico è sostanzialmente un allarme che salta e che inizia a esplodere. L'allarme che dice stai per morire. Peccato che l'allarme è falso. Essendo falso non è pericoloso in se stesso, però la persona la vive come se fosse effettiva e reale. Professore, però quello che noi oggi vogliamo dire alle persone, sono tante che mi stanno chiedendo aiuto, è che da questa grande paura si può uscire. in fin dei conti è un allarme rotto, quindi basta aggiustarlo. Una volta che noi siamo capaci di riparare questo allarme, la persona ritrova la forza e la capacità di riaffrontare la vita in maniera più serena. Il vero problema, e questo il nostro ascoltatore che ha parlato prima l'ha detto chiaramente, è che l'attacco di panico può essere talmente violento e talmente ripetuto che una volta tolto non fa scomparire la paura. Cioè la paura, che è la reazione di difesa dell'individuo all'attacco di panico, costringe le persone a difendersi continuamente. Allora è lì dove ci vuole l'aiuto spesso di un terapeuta o di corsi particolari o comunque di interventi specialistici per riinsegnare alla persona ad affrontare le situazioni senza paura. È chiaro che però se non siamo in grado di bloccare l'attacco di panico iniziale, certo, risulta essere molto difficile. Se questo allarme continua a suonare a vuoto, noi non riusciamo a tranquillizzarci e a vedere la realtà nella. Davide, buongiorno, da Milano, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio di questa possibilità. Io sono un ragazzo di 24 anni e da circa un paio d'anni ho gli attacchi di panico molto frequenti, quasi tutti i giorni. Il problema è che la maggior parte delle volte i miei attacchi di panico sfociano in attacchi di cattiveria, attacchi di ira, divento violento e una volta che è finito questo attimo di ira, come chiamo io, mi termina anche l'attacco di panico e questo diventa un problema perché comunque non posso più frequentare, non so, io ho 24 anni, le discoteche o comunque tutti quei locali affollati, perché uno per la paura che poi divento violento, due perché sto proprio male. Davide, scusa, ti do del tu, sei giovanissimo, sì, sì. Ma ti sei rivolto a qualcuno, a un centro, ne hai parlato con tuo medico di base, stai facendo qualche cosa? Hai fatto bene a raccontarcelo, ma... Io sono in cura al consultorio. Ma non, piano piano vedo che comunque non riesco a risolverlo, cioè magari riesco a farmi diminuire gli attacchi di panico, cioè averne meno, ma poi comunque ho sempre l'effetto a volte di, non so, magari di prendere un oggetto e scagliarlo Davide, volevo parlarne con il professor Perna. Professore, sono dei sintomi, però a Davide ha i sintomi classici dell'attacco di panico, ce ne aggiunge uno, l'aggressività, e quindi lui si sente veramente, no, imprigionato, ha paura di avere questi attacchi perché può nuocere anche agli altri. Sì, c'è da chiedere una cosa, allora voglio dire, il caso simile a quello dell'ascoltatore capita veramente molto raramente, cioè di solito quando si hanno gli attacchi di panico non si hanno anche le crisi di aggressività, no? Sì. Quindi la persona col panico quasi sempre, direi al 99.99%, non perde il controllo, no? Sì. Quindi questa è la prima cosa da chiarire, giusto per ragionarci sopra. Poi è vero che sono stati descritti dei casi in cui gli episodi di rabbia sono stati legati a degli attacchi di panico. In questo caso la cosa importante è curarsi bene, e questo ovviamente dipende dal professionista che si è davanti, perché se lui ha questi agiti di aggressività certamente si difende. Come si difende? Evitando, quindi certo, sempre limitando la propria libertà di fatto, proprio per la paura di poter far male qualcuno oppure a se stesso. Però diciamolo chiaramente, non è la regola. La regola è che uno abbia attacchi di panico e abbia piuttosto degli attacchi di paura e di angoscia, quindi di paura e di terrore, piuttosto che il senso di fare delle cose aggressive o di rabbia. Però il mio consiglio è di comunque parlarne e continuare a fidarsi ai specialisti o chiedere un secondo parere se non riesce a risolvere il problema. Certo, e c'è anche un supporto che può dare la psicoterapia cognitivo-comportamentale, che ha proprio l'obiettivo di prendere per mano la persona e di farla sperimentare, no, delle situazioni, a poco a poco a vincerle, come una scala, scalino dopo scalino si affrontano anche le situazioni più difficili. Dottoressa Piccinni. Esattamente, Nicoletta. Allora, partendo dall'esperienza di Davide, sicuramente associata a questo attacco di panico esce questa sua forte emotività, questa aggressività che, come diceva però il professor Perna, non è la regola, no, nel disturbo di panico. Quello che poi si fa comunque è un intervento di tipo cognitivo-comportamentale che porti comunque la persona innanzitutto a prendere consapevolezza di quelle che sono le proprie emozioni e anche i sintomi legati a quelle emozioni, quindi i sintomi legati alla paura, all'ansia, l'ansia, eventualmente anche alla rabbia, no? Alla tristezza, eccetera. E insieme naturalmente al terapeuta si aiuta ad affrontarle man mano, proprio come dicevi tu, attraverso, come se fosse una scala, gradino per gradino, step by step. E spesso per attenuare la paura c'è uno strumento che tutti noi abbiamo a disposizione, che è il respiro. Se ci pensate, adesso abbiamo parlato della grande paura, dell'attacco di panico, ma anche nelle paure più piccole, quando la paura sale il respiro si accorcia. In linea con noi abbiamo il professor Massimo Di Gianantonio, ordinario di psichiatria all'Università D'Annunzio di Chieti. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi abbiamo questo aiuto, la nostra respirazione è un po' il termometro anche delle nostre emozioni, ce ne rendiamo conto tutti, no? Quando siamo agitati il respiro sale, quando siamo più calmi, più rasserenati, quasi non ce ne rendiamo conto di respirare. Allora, come possiamo utilizzare questo strumento per il nostro benessere? Per utilizzare il respiro ad aiutare il nostro benessere, noi dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo una grande riserva polmonare. I nostri polmoni contengono circa 3,5-4 litri di aria. Normalmente nella respirazione normale, fisiologica, quotidiana, utilizziamo quest'aria in una percentuale molto ridotta, dal 20-25%. Se quando facciamo un grande respiro mettiamo dentro l'aria espandendo la cassa toracica e poi emettendo il respiro dalla bocca e facciamo questo esercizio 4-5 volte, l'enorme quantità di sangue che viene arricchita dall'ossigeno dopo queste respirazioni profonde porta un nutrimento, porta una energia, porta forza alle attività del cervello che servono a sconfiggere il rischio dell'attacco di panico. Non so se i colleghi illustri che hanno parlato prima di me hanno detto agli ascoltatori che noi siamo in grado di indurre in ciascuna persona, in me, in lei che mi fa le domande, negli ascoltatori che stanno a casa, noi siamo in grado, con una semplice busta per il pane o busta di plastica, possiamo scatenare un attacco di panico sperimentale in ciascun cittadino che non lo ha mai provato. Come possiamo fare questo? Essere e benessere. Professore Di Gianantonio, eccoci qua. Lei ci ha detto che noi potremmo, voi potreste indurre? Noi potrebbe sperimentare, e non lo auguro a nessuno ovviamente, un attacco di panico sperimentale. Basta mettere una busta di plastica davanti alla bocca e al naso, fare una serie di respiri senza cambiare l'aria, l'aumento drammatico di anidride carbonica nell'aria che respiriamo in questa busta di plastica, dopo un certo numero di minuti ci scatena un terribile attacco di panico. Il che significa che l'attacco di panico dal punto di vista respiratorio è collegato all'aumento della concentrazione dell'anidride carbonica. Comprendiamo così che se facciamo dei grandi respiri, se apriamo e chiudiamo la cassa toracica, se rinnoviamo la riserva gassosa dell'ossigeno nei nostri polmoni, facciamo un'opera straordinaria di prevenzione dell'attacco di panico e eliminiamo la causa neurofisiologica. Grazie, professore. Quindi anche nelle piccole paure, quando la tensione sale, una buona respirazione la fa scendere. Grazie al professor Di Gianantonio. Grazie a voi. Sa che ieri ho visto un documentario bellissimo sulle fobie? Porca miseria, Ma sai che ci sono delle fobie che sono assurde? Ad esempio l'agorafobia, che è la fobia dei grandi spazi vuoti. Che è la stessa paura che ha il neurone che ha in testa. L'unico, tra l'altro. L'ultimo, figlio unico. Incarnito, tra l'altro. E poi c'è l'arachnofobia, che è la paura dei ragni. Io l'avevo da piccolo, l'arachnofobia. Ero terrorizzato, non leggevo neanche i fumetti di Spider-Man. Una paura avevo, mamma mia, paura dei ragni. E dico la verità, quando ho sentito hanno ucciso l'uomo ragno, non dico che ero contento, ma... Professor Perna, un commento. Allora, la respirazione può essere utile, sicuramente è uno strumento che noi dobbiamo imparare ad utilizzare. Ma questo è vero, il professore Di Gianantonio ha toccato un punto che devo dire, noi, il mio team ha studiato negli ultimi 20 anni, c'è cioè il rapporto fra la respirazione e gli attacchi di panico. Questo è un rapporto molto chiaro, molto inequivocabile, tant'è che la più importante teoria che sta dietro il panico è la cosiddetta teoria del falso allarme da soffocamento. Certo. Cioè che ci sarebbe un allarme proprio sul soffocamento, sull'aria, che squilla in maniera immotivata. Per questo motivo imparare una tecnica respiratoria può aiutare. Bisogna stare molto attenti, però non è che basta respirare per far passare l'attacco di panico, bisogna avere delle tecniche specifiche. Certo. E quindi bisogna affidarsi a persone che abbiano una competenza. Mentre quando l'emozione, quando noi siamo di fronte ad una paura molto più piccola, no? L'abbiamo sentito quelle di Ale che raccontavano Ale Franz, ecco, una respirazione, anche magari non di quelle profonde, non è necessario fare un corso, può aiutarci a tenere un po' sotto controllo la situazione. Francesco dalla provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, è molto interessante la puntata di oggi. Io volevo portare la mia esperienza relativamente alla paura che si sviluppa nell'ambiente di lavoro, relativamente al senso di inadeguatezza. Certo. Verso le mansioni svolte. In particolare io ho 32 anni e ho una, ahimè, lunga carriera di lavoratore precario, come molti miei coetanei. Mi ha portato spesso a cambiare le posti di lavoro anche per periodi di 3-4 mesi, ogni anno mediamente ne cambio almeno 2 se non 3. E il discorso è un po' questo: molte volte quando si cambia il posto di lavoro si cambia completamente ambiente, cambiano le istruzioni, cambiano i capi, cambiano magari anche i lavori stessi. Questi continui cambiamenti tante volte, invece che portare ad avere una maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e capacità, sebbene io comunque abbia ancora 32 anni quindi mi possa considerare in qualche modo abbastanza giovane, tante volte invece mi creano delle vere e proprie paure ed ansie, perché mi disorientano tante volte, specialmente nelle prime esperienze nel posto nuovo, nei posti nuovi, ti trovi magari a non essere ancora perfettamente capace di padroneggiare il lavoro, padroneggiare le conoscenze e quant'altro, e questo tante volte può scatenare, almeno nel mio caso lo fa sicuramente, delle sensazioni di paura. In particolare mi è capitato davanti, quando facevo lavori davanti al pubblico, adesso attualmente lavoro per un importante marchio di una catena retail, un lavoro che ha anche un certo prestigio, sì, dove anche l'immagine è molto conta, importante. Certo. E quindi la pressione psicologica che hai addosso è notevole, anche il senso di competizione dentro l'ambiente di lavoro, e il fatto magari di non riuscire o di avere la sensazione di non riuscire a garantire le prestazioni che ti sono richieste, Certo. Crea una sensazione d'ansia enorme. Mi è capitato tante volte di restare a bocca aperta e non dire una parola davanti al cliente. Dottor, questo è certo, e questa a sua volta, no? Genera la paura di ritrovarsi nella stessa situazione. Questa sensazione assolutamente reale, come ce l'ha descritta il nostro amico, è sana in un certo senso, no? Motivata anche da questo cambio continuo di posti di lavoro. Dottoressa Piccini. Può diventare però patologica, nel senso che può costituire una vera e propria fobia, quella che viene proprio chiamata fobia sociale. Il nostro amico ci parlava proprio di un'ansia da prestazione che si produce in seguito a dei cambiamenti o comunque a delle pressioni forti che riceviamo dall'esterno e dall'ambiente. La paura di non essere all'altezza, la paura di essere inadeguati, di fare brutta figura. Come si esce? Anche in questo caso si esce naturalmente attraverso un percorso terapeutico mirato con degli obiettivi specifici che ci porta ad esporci ancora una volta, quindi ad affrontare gradualmente, però molto gradualmente, di nuovo la nostra paura, ad affrontarla cercando di avere degli strumenti che sono le tecniche di rilassamento, che sono le tecniche di respirazione, che possiamo mettere in atto nel momento in cui l'ansia sale, si fa sentire e a volte provoca questi blocchi. Abbiamo ancora un paio di minuti per sentire Ilaria che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Ilaria, benvenuta. Sì, buongiorno. Io ho 37 anni e a me questa cosa capita da quando ero proprio piccola, non dico nell'età dell'infanzia, ma quasi già dall'adolescenza. E, però non so, ho paura di uscire un po' fuori tema, nel senso che queste paure a me succedono di notte e mi accorgo che sono in uno stato di tipo di dormiveglia, nel senso che magari sto facendo dei pensieri sulla morte, sul morire. Non so perché la notte mi porti a ricapitolare forse tutta la giornata e poi... Però la giornata passa, ma è di notte che sale la paura. Professor Perna, potremmo dedicare una puntata a questo, ma abbiamo un minuto. Ma un minuto, moralmente questo. Intanto, per esempio, gli attacchi di panico capitano di notte. e quando capitano di notte non sono neanche legate ai sogni, quindi sono tipici, quindi non è una cosa strana. L'altra cosa è che la sera, quando ci addormentiamo, se siamo tendenzialmente ansiosi e apprensivi, rimuginiamo, e questo rimuginio fa salire la nostra ansia. Quindi quello che dice l'ascoltatrice non è un'eccezione, è una cosa che capita frequentemente. Allora, io in 30 secondi, professor Perna, però lei mi dica se avevo letto e avevo sentito di questa tecnica per le persone che sono particolarmente ansiose e tendono a rimuginare, di scrivere su un foglietto prima di andare a dormire i pensieri che affollano nella mente e che disturbano, per cui segnati su un foglietto rimangono lì e uno può concedersi un sano riposo. Professor Perna, possiamo suggerire anche questa tecnica? Ma è una tecnica che può funzionare, come pure può funzionare la tecnica del distrarsi, cioè se io sono la testa invasa dai pensieri, forse mettermi l'iPod e ascoltare una musica che mi piace, rilassante, può proprio sgomberare il campo. Bravo, dalla mente. A proposito di riascolto, potete riascoltare anche le puntate di Essere Benessere, scaricatele, insomma, state collegati con noi. Roberto Scaltritti, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, grazie a loro, grazie a voi, grazie ai nostri esperti, al professor Perne, alla dottoressa Piccinni. Noi ci sentiamo domani. Essere e benessere.